10 Va ora in onda. No, Eleonora, non ci siamo, No, perché? No, non è successo nulla di grave. Già questo, perché? Già questo dovrebbe no, un po', no? Non è successo nulla di grave, solo che e stavolta quindi sarai aiutata nella tua tua annunciazione. Lo so che, come tutte le donne, sono un po' gelosa, ma figurati, sei la nostra speaker per eccellenza. Solo che abbiamo avuto due ospiti dall'alto e non si poteva fare niente. Sì, però basta appunto che sono persone che riescono a fare. Già persone, non è proprio. Se chiedi persone, c'è un problema, perché noi li sentiamo in sottofondo, sono due personaggi un po' particolari. Sentiamoli. No, non mi dite che è tornato. No. Sono due amici. Allora, lui è tornato e ormai è un cult. E vabbè, ma sapete che mi sta antipatico, però. Vabbè, dai, su, dai. Cerchiamo di lavorare. Allora, una alla insieme volta. Cominciamo col nuovo. E il nuovo chi è poi? Il nuovo adesso lo riconosciamo subito, prego. No, un attimo, non può cominciare così. Sta tossendo? Io lo so. Purtroppo penso che lui parli proprio così. No, veramente. Come non sta tossendo? Secondo me questa cosa è terribile. Ma va bene anche se fa soltanto ho capito, certo, ma almeno sa parlare, però sì, lui è un cane che parla almeno. Va ora in onda di Cremona Strazzullo, dirige il maestro Corrado Parisi e vai così. Buongiorno, buon pomeriggio. Ti sembra il caso? Vabbè, dai, po' di... Riprendiamo. Buongiorno, sì. Buon pomeriggio e buonasera da Riccardo Cremona. Buon pomeriggio anche da Alessio Strazzullo. Sì, Radio 2010, mi sta stretto lo stivale. Hai fatto proprio un inizio col botto, direi, Ma guarda, quando uno si carica durante tutta una giornata a furia di vai, sei il più forte, quando poi arrivi in radio è fatta. Guarda, ce ne siamo accorti tutti, anche i nostri telespettatori, che hanno già chiuso il podcast adesso, sì, in questo momento. Telespettatori, hai detto. Hai ragione, radioascoltatori. Radioascoltatori, dai. Che palle che sei. Su via. Partiamo, abbiamo un sacco di notizie. Ah, attenzione, mi dico, abbiamo dimenticato un pezzo fondamentale da salutare, giustamente, sì, poi me la farà pagare. Il nostro DJ oggetto. Sì, il nostro DJ celebre Oleso. Ciao DJ, come stai? Buonasera! Sarà anche offeso, però è sempre uguale. Si avvicina sempre troppo al microfono, comunque, secondo me. Vorrei dire che però sono due persone alquanto maleducate, in quanto non salutano mai la regia, che comunque gli sta alle spalle, grazie a noi questo programma può andare in onda. Si sta incartando. Grazie, arrivederci. Ok. Io lo preferisco, ma fa buonasera. Pure tu. Vai, partiamo subito. Abbiamo un numero imprecisato di notizie. Allora, dobbiamo essere velocissimi. Iniziamo subito con una notizia seria. Non c'è niente da ridere, quindi non ridiamo. Niente. Te li ricordi Omar ed Erika? Come no? Quei due assassini. Sì. Che hanno completamente sterminato... andati fuori di testa, sì, che hanno distrutto una famiglia, sì, li hanno assassinati. Uno dei delitti più cruenti del nostro, sì, stato, comunque. Assolutamente. Beh, io vorrei iniziare dalla fine di questa magica storia. Com'è finita? Che Erika si è laureata in filosofia nel 2009. Ah, la invece... tesi su chi l'ha data. Esatto. No, non lo so, forse Heidegger, probabilmente, sì, non ho idea. E, invece Omar, sì, che è uscito oggi, che dicono che era la pedina di Erika. Sì, pare che questa donna, no? Una femme fatale che l'abbia portato anche questa se secondo pazzia. Me se ammazzi uno, cioè, sai, qualcosa solita, di tuo ce l'hai. La solita cosa che diceva tua mamma è: ma perché se il tuo amichetto si butta giù, tu ti butti giù. Insomma, se la tua ragazza vuole ammazzare qualcuno, cercate di non assecondarla. Dite no ad ammazzare i genitori, ecco, della vostra ragazza, compreso il fratellino. Terribile. Esatto. Una e comunque Omar Favaro, ricordiamo che l'omicidio c'è stato il 21 febbraio del 2001, torna a Novi Ligure. Esatto, torna in libertà dopo 9 anni di reclusione. Così pochi? Sì. Nove in realtà Omar era stato condannato a 14 anni di carcere in rito abbreviato. E sono comunque pochi per quello che hanno fatto, secondo me. Sì, poi tu sei soprattutto molto più esperto di me riguardo. Sì, c'è un problema palese della nostra giustizia. Cioè, lui ha assassinato, complice, non complice, comunque due persone. Sì, e perché maniera... allora gli hanno dato così poco, secondo te? C'è qualcosa che non funziona, perché il rito abbreviato serve proprio a questo, per non creare un intaso riguardo ai processi, e quindi tu... diciamo dai un contentino all'accusato che ha deciso di fare il rito abbreviato, che ti comporta di difenderti in maniera diversa. Solo che secondo me uno fa un rito abbreviato, è vero, per accorciare, ma si fa anche sulle materie dove, cioè sulle cause che si è più sicuri di quello che è successo. Cioè stiamo parlando di due che hanno assassinato una famiglia intera, due, cioè la madre di lei e il bambino. Sì, ma poi il fratello... lei che ti ricordi che lei, tra l'altro, io mi ricordo il faceva giorno, finta di essere io mi ricordo il giorno che successe, che lei disse che erano stati dei rapinatori extracomunitari. Sì. Quindi c'è anche l'aggravante, era un omicidio premeditato, colpo, chi ne ha più ne metta, una cosa che doveva essere buttata in cella e buttare via la chiave. Comunque mi sconvolge che dopo 9 anni questo assassino, perché non è che possiamo nominarlo in maniera diversa, esca e abbia anche voglia di rifarsi una vita. Cioè, ci può anche stare, ma secondo infatti, me... la Repubblica ce la riporta come una, diciamo, come una storia quasi a lieto fine. Nel senso, ci racconta che dopo alcuni permessi, Omar da gennaio è stato ammesso al lavoro esterno in una cooperativa che si occupa di aree verdi comunali, e invece Erika, che sta scontando la condanna a 16 anni... a Brescia, è riuscita a laurearsi in filosofia nel 2009. Cioè, secondo me è terribile, perché 16 anni e 14, che poi proprio per colpa del nostro sistema si accorciano sempre di più, è impensabile che uno per un assassino si faccia solo 14 anni, 16 anni, per un assassino in questo modo, capito? Omicidio colposo, premeditato, visto doppio. Che comunque ancora non si è riuscito a trovare un metodo alternativo alla galera, a questo punto fate le cose, no. Fatele bene, cioè... due colpevoli hanno ammesso, è successo di tutto, abbiamo fatto, cioè, lo schifo italiano in questa storia. Anche perché c'è chi per molto meno si prende anche 3-4 anni di galera. Sì, insomma. Per molto meno il nostro mitico Corona, per esempio. Corona insomma, dai. Vabbè, certo, però lui non andava ad ammazzare, eccolo. Certo, però lui non andava ad ammazzare la gente. No, infatti comunque è una notizia, noi partiamo seri perché questa cosa è grave. Cioè, io per me dovevo rimanere in carcere vita natural durante. No, io questo non lo so. Però fa abbastanza specie che chi abbia ucciso in questo modo barbaro già sia fuori. Sia già fuori. Cioè, o terribile. Almeno sia già sulla via per... per uscire, ma anche lei uscirà. Poi magari ci saranno anche esperti, molto più esperti di me, sicuramente. Ma anche che di me. Che saranno giudicando la situazione in un altro modo. Passiamo a una notizia un po' più leggera. Leggera, è pesantuccia pure questa. La sua è leggera. Dipende come la prendi. Pesantuccia. No, è pesantuccia intellettualmente parlando. La questione in sé è leggera. Sì. Mettimela così, la leggo. Stiamo parlando del nostro mitico paladino della giustizia. Ritorniamo alla notizia. Il caso Marrazzo, Corona ne ha parlato. Se Marrazzo vuole venire qui a parlare di questa cosa, noi ovviamente siamo apertissimi. Non riesco a capire perché non viene mai nessuno in questa radio. Ecco. Ma tu pensi che mai qualcuno verrà? Il giorno che viene uno ci mette a fiori e merda e noi chiudiamo. Sì. Comunque Corona è seduto in cattedra, ha parlato per parecchio tempo, ha parlato anche del caso Marrazzo, che lui ha detto che gli era stato proposto di far uscire lo scoop, ma lui ha rifiutato perché non è più quello il suo mestiere. Non si capisce adesso quale sia adesso il suo mestiere. Sicuramente non quello del professore. Cioè, secondo me è un'idiozia farlo andare all'università di studi Fabrizio Corona. Cioè, ma l'anno all'università qua Federico II verrà anche Daniele Interrante oppure Costantino Vitagliano. Cioè, che cosa è? No, dico, ti piacerebbe un po'. Ma... cioè, sono curioso di sentire cosa hanno da dire. Io questo sdoganamento dell'università non mi piace per niente. Sdoganamento dei coglioni. Sì, anche perché ormai l'università va chiunque, il più pirla dei pirla va e fa lezione. Tanto quanto Valentino Rossi sa impennare e sa rimanere in piedi sulla moto mentre impenna. Sì. Ma no, io sono contrario, per esempio, a una cosa bruttissima nel nostro stato, le lauree ad honoris. Vasco Rossi comunque riempie ogni stadio con 100.000 persone. Non è un motivo per dargli una laurea. Mike, buongiorno. Mike, buongiorno. Io la laurea gliela darei. La 1, la 2, la 3, gliela darei io la laurea a Mike, buongiorno. Gliel'hanno data, mi sa. Ma è giusto. Se lo salutiamo anche, oggi è una giornata... Morto, lo, lo salutiamo nel senso lì, ci guarda. Ah, sì. In mezzo ad un sacco di bambini che... Che sta facendo la genius in paradiso. Sì. Che cosa triste che hai detto. No, io sono contrario. Perché? Io sono contrario alle lauree honoris causa perché... Non c'entra niente, c'è gente che si fa un mazzo così col culo di piombo sulla scrivania tutti i giorni per studiare. Questo arriva Vasco Rossi, uno che beve, uno che è più. Sono più momenti in cui non è lucido che momenti in cui è lucido. Vabbè, ma... gli dà una laurea e non è la stessa cosa, capito? Ok, però si pensa sempre che poi dopo Vasco Rossi con quella laurea non è che vada ad insegnare o intraprende una carriera lavorativa. No, però quindi a me dà fastidio sommato... che nel curriculum di Vasco Rossi ci sia una laurea onorisca. Sì, quello dai. È un laureato, dai, uno che non, sa manco più, non riesce manco più a parlare. Andiamo avanti che le altre notizie pure sono... Ah, altre notizie ancora di sempre gente importantissima, piena di cultura. Parliamo del mitico Riccardo Scamarcio. Sì. Ricordiamo Riccardo Scamarcio, diventato famoso, entrato in auge nel mondo della cinematografia per il personaggio di Step... Nel magnifico e meraviglioso. Un brutto nome per un personaggio. Cioè, beh, se nomignolo. Io scrivessi. Sì, vabbè, a Step. Ho capito, se tu scrivessi. Cioè, quando da piccolo a 12 anni andavo ad imbrattare i bagni della mia scuola media, io mi firmavo Step. Tu ti firmavi Step? Sì, ma perché era il periodo. Era il periodo delle. No? Ho capito. Delle tag. Vabbè, delle tag si dice. Comunque, tag, no, sì, tag. Tag. Comunque, stiamo parlando di un film che ha scritto Federico Moccia. Sì, già citato più che volte. Che sappiamo che non è Hemingway, capito? Non è questo genio della scrittura. Non però vincerà Step, mai un dai. Premio Strega. Però Step, sicuramente. Guarda, il premio Strega fa veramente cacare. Sì, sai? Vabbè, però c'è un limite a tutto. Non è una cosa molto, molto seria ormai. Sì, però c'è un limite. Un po' come Sanremo. Sì, sta diventando un po' come Sanremo, sì. Però da qua a far vincere qualcosa Federico Moccia per quello no, che ha scritto no, film è ridicolo. No, non scherziamo. E comunque ricordiamo Riccardo Scamarcio. Riccardo Scamarcio ha girato il nuovo film di Ferzan Özpetek. Io ringraziamo sempre il mattino per i grandissimi titoli. Allora, sì, il titolo di questo articolo di oggi è Scamarcio Gay e il film di Özpetek. Cioè, comunque, no? Titolo sì. Abbastanza... Carino. Carino. Allora... Praticamente il nuovo film di Ferzan Özpetek. Poi io sono anni che lo dico, eh. Me lo fai dire questa cosa. Nonostante la Golino, secondo me lui un po'. Ma che dici? E guardalo. Qua c'è la querela. Ma quella è una faccia. Quella non è la faccia di un gay, la faccia di cazzo. È diverso. C'ha anche gli occhi incrociati in questo. Sì, è vero. Lo strabismo di Venere, tra l'altro gay, cosa del genere. Tipica. Comunque, il nuovo film si chiama Mine Vaganti, sì. Che sarà in sala il 12 marzo. Praticamente il film. Parla di una storia quasi autobiografica che parla di un padre pugliese sì. Che si ritrova ad avere entrambi i figli gay. Sì. Che cioè, non è un problema, ma sicuramente un padre pugliese, stiamo parlando comunque negli anni 50. Penso che il film faccia leva su questo. Cioè, è un problema. Sì, certo. E Scamarcio ha dovuto fare la parte di un gay di nome Tommaso, non me ne vogliono i Tommaso, però hanno scelto questo nome, dove lui bacia degli uomini. Sì. E lui ha detto, non è tanto un problema. Baciare un uomo, ci sono scene molto più difficili da fare. Certo, se sei un attore cane è tutto chiaro, più difficile. Baciare per te è una cosa tranquilla. Poi se giustamente vieni da Step è tutto difficile. Sì. Cioè sì. Puoi fare un gay. Alessio dice che fare gay magari ti esce pure facile. No, è però io penso che lui sia un bravo attore. Tra l'altro la settimana veramente. Prossima probabilmente proverò a invitarlo pure no, a parte gli scherzi proverò a fargli fare qualche dichiarazione nel mio piccolo registratore ad una prossima presentazione che farà qua a Napoli, quindi magari gli dirò anche che secondo me lui come gay vale molto. Sì, vediamo la reazione. Va, per favore promettimi che lo fai. No, un po' paura, penso sia anche Riccardo, abbastanza grosso. Riccardo come gay vale molto. Come gay non sei niente male. Non c'è male come gay, ma penso che sia una persona molto intelligente. Comunque gli hanno tagliato tutti i suoi folti capelli ricci. Infatti lui ha fatto la dichiarazione che il problema più grande del set è stato tagliarsi i capelli. E poi parliamo proprio come tutte le donne. Poi parliamo, noi adesso scherziamo, gay di qua, gay di là. Sì. Però lui effettivamente ha avuto un contatto con la Bellucci in Manuale d'amore che... Tu tutti li sai queste cose, Un esperto. Vabbè, era un film, ma che c'entra questo? Lui adesso ha fatto il gay, non è Tommaso. Io pagherei, per fare una scena del non genere. Non avevo dubbi, guarda, perché anche a gratis te la scordi. Vabbè, ma è chiaro, ma per carità. Comunque la notizia è questa, che lui bacerà un uomo e si dice che gli sia anche un po' piaciuto. Vabbè, noi lo salutiamo, Riccardo, sei ufficialmente invitato qui da noi. Sì. Non verrà mai. Ma chi lo sa, ma chi lo sa. Forse se lo chiami Tommaso viene. Forse verrà il prossimo ospite di cui parleremo. Sì, vabbè. Il nostro caro amico Gigi D'Alessio. Mi dico Gigi. Allora, Gigi, per favore, fa qualcosa. Non farti chiamare così Gigi, che tra l'altro è abbastanza brutto per un uomo dello spettacolo. Uè, Gigi, sembri sempre l'amico. E come vuoi chiamarlo, scusi? Si chiama Gigi. Non si chiama veramente Gigi, secondo te lui all'anagrafe è Gigi. Stiamo parlando di Gigi D'Alessio, okay. Lo conosci il personaggio? Allora, sì, Gigi D'Alessio. Lo ricordi, no? Gigi D'Alessio ai vecchi tempi, quando era giovanissimo ma già pelato. Non dirgli mai che abbiamo stato a letto per un giorno Bravissimo. Intero. Pezzi di musica eccezionale, tra l'altro. Incredibile. E comunque cosa è successo al mitico Gigi? Farà un programma televisivo, no, come tutti lui. Ormai chiunque tutti. C'è chi come noi fa la radio, quindi tutti ormai fanno la radio, possono fare la radio. Stai offendendo lui. No, stai offendendo lui farà un programma televisivo che vedranno un po' come Massimo Ranieri. Attenzione Massimo qua, pericolosissimo. Allora, l'altra volta avevamo Fernanda, no, questa volta abbiamo Eleonora, che ci sta distruggendo l'attrezzatura mentre grazie, spazza. E io apprezzo pure che una donna stia spazzando. Però dico spazzare per non dire altro. Però diciamo che potresti evitare di spaccarci l'attrezzatura. Sei simpatica, brava, spazza e magari stila pure una camicia se ti trovi. Però fare danni, no. Ok, benvenuti alla fiera del maschilismo. andiamo avanti. Misoginia, niente, allora. No maschilismo. Gigi comunque... D'Alessio farà questo programma televisivo. Tu devi leggere il nome, come si chiama il nome? Oh, dai. Dici il nome, come si chiama? Leggi il nome, come si chiama il programma? Gigi, questo sono io. Piacere, Riccardo che vuole, vaffanculo. Yeah. Tra l'altro due caffè, grazie. Ringraziamo sempre il mattino per questa foto meravigliosa in cui Gigi D'Alessio sembra... un po' quell'arbitro che assomiglia a Shrek, quell'arbitro internazionale, ah, sì, quello olandese, sì, quello olandese, sì. Guardalo, poi c'ha questo braccio alzato. Diciamo che lui c'ha una leggera stempiatura. Sembra che ha un ginocchio in testa. Però, però questo da sempre. Io mi ricordo, sì, che anche quando aveva 16 anni aveva già la doppia stempia. Tant'è che quando trovi qualcuno che ha questo tipo di attaccatura di capelli, dici: oh, fra, pare proprio Gigi D'Alessio. Sembra, ma quello non è l'attaccatura dei capelli, no, quello vabbè. È tutta una fronte, tiene un frontone. Comunque Gigi, questo sono io. Allora, per favore, due caffè, grazie. Che poi l'ha fatto già Massimo Ranieri, che sì, ha fatto un programma. Allora, però sono due le donne della sua vita. Il problema vero è che comunque ci sono degli ospiti ci saranno degli ospiti in questo programma. A me dispiace vedere questi nomi, perché per esempio Claudio Baglioni, sì, Lucio Dalla, Massimo Ranieri stesso, Sofia Loren, cioè per favore, ma perché? Che ma ci perché? Fate da Gigi D'Alessio? Ma perché? Poi immagini quelle scene che sono tutti perché amici. Perché fate così? Ciao Gigi! Uè, Sofì, sei troppo bella. capito? Chiuso il programma, finito. Cioè, non lo guarda più nessuno. Sofì, poi quella cosa che lui magari guarderà la folla e dirà... No, perché Sofia è sempre la donna più bella del mondo. Sofia, cioè, è il simbolo della bellezza mediterranea. Sì, troppa bella. Sì, cioè, troppa io, bella, io ho Sofì. Paura. Ho sì, pure secondo me. Infatti paura. Lo farà tipo sulla Rai, sicuramente, e nessuno lo vedrà la mai. La cosa bellissima è che da quanto riporta il mattino, sempre da quanto riporta il mitico mattino. Il mattino non ci paga, noi lo amiamo proprio per motivo etico. Visto che dà da mangiare alla nostra trasmissione, sì, parla in terza persona. Chi? Due persone... Penso, anzi forse tre, parlano in terza persona del nostro... Gesù. Una mia vecchia preside del liceo, che parlava in terza persona e continuava a dire la preside ha fatto, la preside ha detto... Mi fa piacere che tu dopo Gesù metti la preside nella tua scuola. È stata una persona importante nella mia vita, tu scherzi. Ma Gesù è stata una persona importante per il mondo cattolico. E poi Silvio ogni tanto parla in no, terza Silvio persona. Parla tipo in quinta persona. Sesta persona, sì, all'ennesima al quadrato. Sì. Sembra vabbè, che parla di eventi lontanissimi. Comunque di dice, lui. Si cercava di ghettizzare questo ragazzo. Ma chi? Massimo Ranieri? No, Gigi D'Alessio. No, Gigi D'Alessio stesso a parlare. Ah, lui? Allora, mattino.it. Scriviamo in maniera decente. Scriviamo in maniera che anche povere persone che fanno la radio ho possono capito capire. Perché ha scritto così. Questo è un articolo che parla di Gigi D'Alessio e giustamente da Gigi D'Alessio. Ok, si cercava di ghettizzare questo ragazzo, ha aggiunto l'artista. Ciò che arriva da Napoli è visto con occhi diversi rispetto a ciò che arriva da Belluno. Ma perché no, Belluno? Perché Belluno? Perché Belluno? Perché proprio Belluno? Se domani incontro e facciamo solo di Belluno, te lo lo giuro, lo guardo con occhi diversi. Ma poi soprattutto se questo acchiappa qualcuno che arriva da Belluno, gli fa proprio un culo così. Sì, anche da Belluno. Un po' come gli fa un po' con le capelli da Belluno, tira. Quelli mi sa che stanno sopra i 1000 metri, là l'aria, no? No, non ho capito, okay. Quindi no. Sempre eppure no. Tanti dischi li ho venduti al nord. Sì. Napoli, ha poi concluso D'Alessio, sarà presente nel mio programma, ma non solo Napoli, perché non c'è differenza, è tutta la stessa musica di merda, di merda aggiungerei tutta. A questo punto. Di merda tutta, e poi è normale, anzi, che Napoli non mancherà. La canzone italiana è conosciuta nel mondo grazie a quella napoletana. Sì, Gigi, ma non la tua. Non la tua, Gigi. Non la tua. Come la ripeti? Non dirgli mai che abbiamo stato a letto. Questo era un vecchio gioco di Vincenzo Lamagna, lo salutiamo, un nostro caro amico. Per un giorno intero. Sì, ma non stiamo parlando di una cosa. Qualche titolo di canzone di Gigi D'Alessio ce lo ricordiamo? Anna Re, se non sbaglio. Anna Re con Maggio fatta a Salundana te. Pezzi proprio di musica eccezionale, proprio Anna De Gregori. Anna Re, si spusi in da chiesa, fai scema Gesù. Questa non la dimenticherò mai. Questa è bellissima. Attenzione, la regia, non c'è vita da bu. Non c'è vita da buttare. Il libro ha scritto un libro. Pure un Gigi D'Alessio lì. Sì, giustamente, i libri. Cerchiamo di non fare troppa pubblicità, per favore. Hai ragione, non facciamo. Piove la canzone. Piove. Se posso. Attenzione, vorrei. Il nostro DJ se la ricorda. Attenzione, per favore, DJ. Grazie. Comunque, grande. Ah, quella continuava con lo stesso temporale. Lo sta facendo Rinto Coro. Un'immagine poetica eccezionale. Sì, io mi ricordo che proprio ne ho sofferto. Io c'ho la mia suoneria al cellulare. È la canzone di Gigi D'Alessio. Sì, sì. Allora, sai, in un negozio, quando si vendevano i decoder, eccetera, eccetera, sì. È stato fatto diciamo una promozione in cui, tra l'altro, la stessa Eleonora ha comprato in quel periodo io lavoravo lì. Sì. E dopo lo scaldabagno in offerta con il decoder, tutto è vero, compravi un decoder e ti davano uno scaldabagno. Che non si dice scaldabagno, ma si dice caldo bagno, ok? Ah, il caldo bagno. Il caldo bagno. Netta differenza. Sì, lo so, mi confondo sempre. E meno male che lavoravi in quel negozio. E attenzione, c'è gente che si lava con l'acqua calda, con fredda un adesso, decoder giapponese, sì. Si davano in omaggio un CD di Gigi D'Alessio. Ah, che promozione. Adesso, a parte il fatto che questa promozione sia abbastanza discutibile. Un marketing eccezionale. Secondo te le persone... Come si rapportavano con questo tipo di offerta? Secondo me, allora ci dividiamo, perché c'è gente che veramente per Gigi D'Alessio si strappa i capelli, anche lui l'ha fatto per se stesso. E invece devo dirti che ha una tendenza assolutamente contraria. Perché fortunatamente, ringraziando no, il ma cielo, c'erano anche persone che vedendole e ascoltandole parlare si capiva perfettamente che non fossero degli amanti di Goethe, diciamo. Però ho capito, però se ti però, devo compare il decoder, che diamine me ne faccio di CD di Gigi D'Alessio? Magari ce l'avevano già quelle persone. Comunque, la cosa che dicevano sempre è: no, ma io CD lo voglio vicino, ma non si può avere un CD. Questa era la cosa che dicevano che sempre. Belli. E penso che sia una delle più grandi offese, sì, che si possa fare. Sì. E noi siamo contenti perché Gigi non è che non ci sei simpatico. Però non però ci sei simpatico. Cosa, Gigi è l'unico che guadagna con la pirateria. Lui ha talmente che guadagna con la pirateria. Salutiamo Gigi. Sì. Ciao Gigi, due ciao, caffè Gigi. Dopo, grazie. Il monouso, grazie, il monouso. Andiamo anche un cornetto. Andiamo avanti, vabbè. Stoppetto e tira blu. La prossima notizia è di una stupidità esagerata, però mi ha fatto molto ridere. Tu l'hai voluta... Aspetta un attimo. Sono due frasi. Inascoltabile, okay. Io non volevo metterla. Però guarda la foto, è divertentissima. Tu l'hai voluta mettere e noi ne parliamo. Allora dove stiamo? Panama. 2 marzo. Malore collettivo? Uno scherzo all'arbitro? Ma che? A Panama la gara viene improvvisamente sospesa per un massiccio attacco di uno sciame gigantesco di api che aggredisce i giocatori durante la gara. Imbarazzo da parte di tutti e il commentatore svela il segreto. Ma tu veramente... L'immagine è grandiosa. Sì, ma noi veramente dobbiamo una fare serie la radio di uomini di due metri. Chi ci regala questa notizia? Il mattino.it. Giustamente, grazie mille. Il mattino campa così. Okay. Dai, notizia seria. Allora, la prossima notizia è abbastanza seria. Dai. Ne parla Marcello Dell'Utri. Marcello Dell'Utri. Ah, noto mafioso. Sì, acido. Sì, noto personaggio pubblico della nostra bellissima Repubblica Italiana. senatore del PDL, che non potrà rifiutare. Senatore del PDL. Senatore del PDL. È noto bibliografo. Non riesce. Non so se Dell'Utri, tra l'altro, conosca il significato della parola bibliografo. Non lo so. Comunque, bibliografo. Si dice che Dell'Utri sia un importante attenzione, esperto. Attenzione, che io ho la macchina qua sotto. Quindi, okay, attenzione alle cose che diciamo, perché qua coi piedi di piombo. Io torno, in tutti a, piedi, sensi, io torno a piedi. Dorme coi pesci. Allora, ti ricordi quella frase? Sì, sì. Un dattilo scritto scomparso di Pierpaolo Pasolini è stato ritrovato ultimamente, sì, e Dell'Utri ha detto: l'ho letto, ma non posso ancora dire nulla, perché insomma non vuole bruciare la notizia. Niente saccio, niente dico. Dell'Utri non ha esitato a parlare di giallo a proposito del destino del dattilo scritto. Credo, si è limitato a dire, che sia stato rubato allo studio di Pasolini. Mo, Dell'Utri, sono 20 anni che si parla della morte di Pasolini, se non di più, 30 anni penso, che si parla attivamente della morte di Pasolini. Insomma, non è che vieni tu e dici che c'è qualcosa di marcio sotto. È arrivato, poi, capito, proprio dai, il simbolo della purezza. Esatto, la cosa veramente che mi ha fatto pensare stamattina leggendo la notizia è che lui dice: è una cosa abbastanza inquietante, l'ho letto, ecco. Adesso, se Dell'Utri dice che è una cosa molto inquietante, io mi fido. Ovviamente. Perché secondo me Dell'Utri nella sua vita un po' di cose le ha viste. Inquietanti. Cioè, come Dario Argento che parla di un film horror. No, non voglio dire che ha ammazzato qualcuno. Non lo stiamo dicendo. Non lo diceremo. Non lo diceremo. Non lo diceremo. Non lo diremo mai. Vedi, come parli di Dell'Utri, anche la lingua italiana si ribella. Però... Dell'Utri culo di piombo. Anche. Vabbè, andiamo avanti. La notizia, questa potrebbe essere seria e anche veramente delirante. Sì. Allora, crimini in famiglia. Sì. Purè al veleno per la madre. Mi sgridava se tornavo tardi. Allora, un 21enne in cella perché praticamente lui aveva tentato, perché fortunatamente, ringraziando il cielo, non ci è riuscito, di avvelenare la madre mettendo nel purè, il purè di patate buonissimo, eccezionale, mettendogli dentro il raticida. Questa si ricollega tra l'altro alla notizia delle patate OGM. Ah sì, tra l'altro adesso l'Europa, noi accetteremo anche le patate OGM. Sì. Tu sei d'accordo all'entrata delle patate OGM? Ma ricca, tanto ormai si rifanno tutte, quindi... Sì, anche le patate sono rifatte. Quindi non è un problema. Patate rifatte, patate naturali, l'importante è che siano patate. Infatti. Dopo questa cosa abbastanza sdrucciolevole, diciamo così, come argomento... Cosa dici? Andiamo avanti, amidoso. Dai, parla. Andiamo avanti e parliamo. Lui praticamente ha inserito questo veleno topicida, assolutamente mortale, in questo purè della madre, che fortunatamente andava a girare il purè e allora ha visto dei grumi blu e c'era qualcosa che non andava. Ma tu dici, perché però? La madre ha preso a buttare il purè. Sono le patate... Se vedeva roba blu erano patate, probabilmente venivano da Pandora, no? Ma che dici? Pandora, questo è stato terribile. Lo so, fa freddo. Adesso qua. Infatti non te l'ho annunciata prima, proprio perché sapevo che sarebbe stata bocciata. No, praticamente la madre ha preso, ha buttato questo purè e è andato subito a denunciare i carabinieri. Sì. Questo le perché... mie patate sono blu! No! Perché ha denunciato subito il figlio. Perché lei è nata subito il sospetto verso il figlio, perché in famiglia c'era già stato un caso. Oh mio Dio. E questa è la cosa assurda. Un caso simile, praticamente identico. Avvelenatori di patate, unitevi. Sì. Sua sorella aveva avvelenato nello stesso modo la zia. Mamma mia. Riuscendo a ucciderla. Ah. Lei c'era lieto fine, diciamo. Quindi, quando anche lei aveva 20 anni. Quindi lei, giustamente, avendo questo ricordo terribile, visto che sua figlia aveva ammazzato sua sorella, perché era la sorella della madre di cui stiamo parlando, sì, ha subito buttato questo purè e è andato subito a denunciarlo. Ha detto che per giorni, mentre si svolgevano le indagini, per una settimana ha vissuto nel terrore mangiando solo scatolette. Cioè, abbiamo un omicidio in casa, la famiglia Borgia, ci ricordi, sì, che si avvelenavano a vicenda, sì, così... È successo questa cosa assurda, quindi si dice che ci sia un istinto omicidia che pare scritto nel DNA, hanno detto i carabinieri, che giustamente... Ma non lo so, a me questo sembra un poco come poter capire l'intelligenza di una persona misurandogli la scatola cranica. Sì, però, non mi ricordo come si dice, però naturalmente è una sciocchezza. Però comunque diciamo che due casi in famiglia, una famiglia proprio sfortunata e anche un po' di pazzi. Vabbè, tra l'altro, comunque... no, però devo dire il motivo. La motivazione, lui ha detto che lei lo sgridava spesso perché tornava a casa tardi. Mamma mia. Quindi madre di tutto il mondo, oltre a non mangiare mai più purè, per cortesia, state attenti, non fate la cazziata che tornano tardi. Poi è possibile che magari non vi avvelenano il purè e vi sparano in faccia, però là è poco controllabile. Per il purè cerchiamo di evitare il purè. Che bella la modernità, hai visto? Dopo la cazziata niente purè. Niente purè, niente purè. Attenzione, comunque, hai visto come il Corriere della Sera invece... Anche lui, No, però più serio. Vabbè, certo, più... la parte di Gigi D'Alessio con il ginocchio in testa. Vabbè. Niente dico, niente saccio. Quella dell'Utri. Quella dell'Utri. Dai, andiamo avanti. Di che parliamo? Ah, questa notizia è... è una denuncia. Sì. È una denuncia. Parliamo di un asilo. Sì. A Novara, in provincia di Novara. Sì. Di Briona in particolare, un comune vicino a Novara. Che è successo? È successo che la bidella e tre insegnanti di questo asilo, di questo istituto, hanno costretto dei bambini piccolissimi che stavano in un asilo, hanno costretto a denudarli per cercare di capire un po' la CSI chi avesse commesso per loro un reato gravissimo. E cioè che aveva compiuto. Allora è successo che la bidella, andata nel bagno dell'istituto, aveva visto il WC, il bagni, sporchi. Qualche bambino naturalmente aveva avuto problemi, aveva piccolo attacco di diarrea, la cacchina. Perché per i bambini è la cacchina, per i bambini che stiamo parlando di cose. Se ha avuto un attacco serio è sempre cacchina. Però è sempre un bambino. Siamo, quanto sarà alto? 80 centimetri, sì, un bambino, insomma, un pargoletto. Quanto ne può contenere? Poca. Ma non parliamo di questo, comunque stiamo parlando di questo. La bidella è andata dal bagno sporco. Mo la bidella sta là per questo, no? Diciamo la verità. Invece questa è arrivata indiavolata. Chi ha sporcato il bagno? Giustamente un bambino impaurito da questa cosa si sta zitto. E loro, un po' la CSI, no? Tutti quanti Grissom e cose varie. Ah, ma lo scopriamo noi. Facciamoli denudare tutti. Mamma mia. E i bambini sono dovuti denudare uno alla volta per scoprire chi era stato. Una cosa terribile è giustamente la madre di un bambino, il giorno dopo è andata. Sì, ma è andata a fare un culo così a queste persone. No, ma è terribile anche perché il bambino poi che è stato scoperto sicuramente adesso un bel traumino. Ce l'ha. Ma per fortuna è stata denunciata la scuola, le tre insegnanti, la bidella, e dovranno avere quello che meritano, perché comunque loro... No, io avevo delle bidelle alle elementari, guarda, mi stai facendo ricordare delle cose allucinanti. Sai quelle là bionde grossissime con quelle braccia alla Mike Tyson? Guarda, però, che le bidelle devono essere solo così. Strette in quei grembiulini azzurri. Blu, mamma mia. Belle donne le bidelle. Bimbo, siamo con te. Se vuoi venire in radio. Magari lui viene. Dai. Non è manco a casa nostra. Ci sentiamo soli qua. Dai, ci sentiamo soli. Qualcuno venga. Vabbè, però il bambino, poveretto. No, comunque, veramente. Spero che queste quattro bidelle. Perché quelle non si possono chiamare insegnanti. Una scuola fatta solo da bidelle. Quattro bidelle. Non si possono parlare. Sono tre insegnanti e una bidella. Ma non sei un insegnante se fai così. Cioè, tu devi avere una sensibilità diversa se insegnare ai bambini, cioè, no? Almeno in Canada. Non è dei fedenti di Canada, merda come l'avevo. Almeno in Canada c'era quella maestra e si faceva le foto nude. Un'altra. Proprio. Ma come li scelgono gli insegnanti? Vabbè, però almeno là si tratta di una bella cosa. Non è mai una bella cosa. Ovviamente non è mai una bella cosa. Niente, comunque per fortuna verranno sicuramente colpite dalla nostra giustizia, che in questi casi funziona, perché non stiamo parlando di niente dico, niente saccio, e neanche di altri. Speriamo. Basta così? Sì, dai. Vabbè, basta così. Adesso le notizie sono finite. Dopo avremo il nostro collegamento con il mitico Ascanio Mummolo. Va bene, adesso ci sentiamo un po' di musica. E ciao. Stanca il paese che inciampa e sto male davvero, ma la televisione mi dice tutto bene sul serio. Il paradiso se c'è, si c'è per me, oh, si c'è per me, oh, che tengo stretta la sola ragione per vivere col desiderio vedo stanca il paese che c'è un pesto male davvero. Oh oh, ma la televisione mi dice tutto bene sul serio. Il paradiso se c'è, si c'è per me, oh, si c'è per me. Tu non mi comprerai mai. Anana e no, anana e no, anana, anana, anana, anana, anana, e anana. Abbiamo sentito Karma di Piera Di Santo. Molto bella, molto bella. Molto bella con l'arrangiamento di Sergio Normanno. È il secondo pezzo che ascoltiamo, sì, e mi piacciono sempre di più. Li intervisteremo a breve, penso. Quindi, questi sono già qualcuno che invitiamo e veramente viene. Sì, quindi. Sì, pare di sì, pare di sì. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. E adesso parte il nostro mitico collegamento col nostro referente, diciamo così, per il mondo esterno e anche politico, a quanto abbiamo capito. Ascanio Mummolo. Mi viene da dire che peccato. Però, che cosa? Che peccato? No, che peccato che ci siano ancora questi personaggi che devono venire in radio. Vabbè, ma Ascanio però, Mummolo ormai è un'istituzione, sì, l'abbiamo in diretta. Vabbè. Andiamo avanti. Ascanio c'è? Buonasera. Ah. Scusate, vado un attimo di fretta, io sto un attimo in riunione. Riunione di che genere? Riunione di partito, io come ho detto sto... Riunione di partito, attenzione a quello che diciamo, siamo in campagna elettorale, non esageriamo. Sì, vabbè, ma io non ho detto niente, sto solo in riunione, sto formando il mio nuovo team. Ah, un team per il partito, un partito per il team. Sì, sì, partiamo col team. Giustamente. E mi faccio una curiosità, può anche non rispondermi, però in verità sì, dovrebbe rispondere. Sì, però presto. No, beh, non dia fretta. Ma c'è gente di là. Chi c'è in questo sono team? Finiti i biscotti del tè. Ma quei biscotti del tè? Non credo che lei beva tè durante queste riunioni. Sono messo quelle riunioni brandy, sigaro. No, c'è gente che squinzie, prende il tè. Squinzie nude che cammina. C'è gente che beve il tè. Alessio, anche lì, smetti. A casa. Sì, perché noi dobbiamo toccare tutti i settori. Anche gli amici suoi, quindi... Vedi? Tutto è collegato. La regina Elisabetta Alessio Strazzullo beve il tè. Sì. No, comunque, voglio sapere un po' da chi è formato questo team. Ma abbiamo vari ministri che dobbiamo presentare, soprattutto il ministro dei beni culturali. Vari futuri ministri, ma adesso questo ministro dei beni culturali volevo sapere, sì, vabbè, chi è? È una brava persona, ovviamente. Un signore molto onesto, si chiama Bernardo Ciociaria. Bernardo Ciociaria, bel che bel nome, bel nome. E ce lo potrebbe passare, lei che dice? Non lo so, lo provo a chiamare. Bernardo! Tutti così chiama lui. Bernardo! Tutti così li chiama, questo tono. Bernardo! Vieni! Allora, io adesso vado in riunione, al limite vi lascio... È strano che non l'abbia mandato a quel paese anche. Così senza motivo. No, perché quello è il team, quindi è amicizia. Allora, i miei collaboratori non li mando mai a fa'culo, al limite gente come voi, posso dire, andate a fa'culo. Mi sembra giusto. Ma è una questione di confidenza. Voglio parlare con Bernardo Ciociaria, sì, futuro adesso... ministro dei beni culturali. Non vedo, guarda, ho l'acquolina in bocca. Adesso lo passo, l'unica cosa, è una persona molto distinta, molto acculturata. Sì, non lo trattate male. Uno serio in politica? No, per carità, mica lo... No, se lei ci dice che uno serio, uno che ha studiato, uno con la cultura, noi certo, ha avuto altre esperienze, è stato sindaco... Ha fatto tante cose. Stato sindaco. Città. Sì, sì. Quindi uno che ha lavorato proprio vicino al popolo. Sta già dentro ai problemi del popolo, anche quelli più piccoli. In generale, quindi è una persona acculturata. E allora basta. È già stato in politica. Sentiamo. Non ce la faccio più, ce la passi. Sentiamo. Allora, Bernardo, adesso me ne vado. Ne parliamo dopo. Al limite ti faccio un sunto della riunione. Un sunto. Vabbè, ciao Bernardo. Signor Bernardo. Buonasera. Signor Bernardo Ciociaria, è lei? Sì, buonasera, mi chiamo Bernardo Ciociaria. Come sta? Tutto bene. Che mi dica? Così, un uomo di poche parole. Sì, io vado più ai problemi del popolo. Lupopolo. Muo culturale, ho detto. Ma lei da dove viene lei, signor Ciociaria? Io da un paesino molto bello e molto carino e molto rustico. Ma lei parla per rime. Sembra Martufello. No, per cortesia, quello è una persona che noi non approviamo tantissimo al paese, lo mio. Perché? Lo mio. Perché, diciamo, ci prende un poco in giro. Ci prendono poco per lo culo. Per lo culo. E non è molto carino. Tra l'altro mi permetto di dire senza fondamento, assolutamente. Quando mai? Cioè, soprattutto noi di Tiralubacchio lo teniamo. Tiralubacchio? Sì, è il nostro paesino, Tiralubacchio. Quanti abitanti ci sono? Quanti abitanti? Un sacco. Ma poi voglio sapere come si chiamano gli abitanti di Tiralubacchio. I Tiralubacchini. Perfetto, però i Tiralubacchini è bellissimo. Salutiamo i Tiralubacchini tutti quanti, saranno tipo... Ma soprattutto alla panetteria di Francesco che fa l'upane buono dalla mattina alla sera, perché poi alle 6 l'attacca e rifà l'upane, butta certo, quello vecchio perché... e rifà l'upane nuovo. Addirittura. Ma certo. Certo che fa su magne. Ma certo. Salutiamolo. Allora lei sarà l'addetto Ascanio. Che rapporti hai con Ascanio Mummolo? Ma secondo me è una brava persona, un bravo ragazzo. Io l'ho conosciuto durante la campagna elettorale del paese mio. Tiralubacchio. Sì, Tiralubacchio, dove io ho presentato delle proposte che sono state appoggiate anche da appoggiate. Appoggiate. Dal signor Mummolo. E quindi da lì è nata una non so che, un certo d'idea, un concetto di base che ci ha unito. Ma... per portare poi far sì che adesso mi ha ricontattato, sono dovuto andare... Cioè c'è feeling, ma non c'è con l'italiano feeling, in questo momento. Ma certo. Lei sa che cos'è il feeling, giusto? Quella cosa con la birra? No, che cosa sta dicendo? La pubblicità? No, allora scusi. No, facciamo finta che non abbiamo chiesto niente, va bene. Va bene. L'italiano questo sconosciuto. Come va bene? Facciamo finta che non abbiamo chiesto niente, va bene. Vabbè, è calato nel personaggio. Ma se le persone non vuole che parliamo di determinati argomenti, non è che glieli possono inculcare io dentro il cervello, no? No, però neanche noi possiamo inculcarvi che cos'è il feeling, o lo sa o non lo sa. Io la guardo la televisione, ma non c'è una bella la televisione. Pubblicità, mi piace, è carina. No, guardi, sta facendo la figura del cioccolataio, andiamo avanti per cortesia. No, io al limite ero un allevatore. No, quale cioccolataio allevatore? È un modo di dire che non sta facendo... Il cioccolattaio sappiamo benissimo chi è il Lupo Alberto, la cioccolateria d'angolo. No, ma c'è la Tiralubacchio c'è una cioccolateria che si chiama Lupo Alberto. Sì, è per i giovani, ci vanno un sacco di ragazzi, soprattutto quelli motorini, quei motorini nuovi, sì, ma bravo, ciao. Aspetta, lei quanti anni ha? 87 anni. È proprio vero che in campagna si cresce bene. No, ma comunque... poi soprattutto, ancora una volta, un esponente politico giovane. Lei guida i muturini? Io no, non li guido i muturini, quelli più giovani di me, quelli là di 40 anni che fanno gli giovani. I giovani di 40 anni. Vabbè, voglio fare una domanda. Lei ha detto a Scania che sarà il futuro ministro dei beni culturali. Ci dica qualche idea, qualche proposta, questa politica c'è bisogno che vada avanti. Ma allora, io avevo pensato, per abbellire, diciamo così, l'uposto, che poi potrebbe essere l'Italia intera. L'uposto. In generale, di dare più colore a tutto. Al panorama italiano. Sì, ma certo, perché al di là del fatto che già la nostra bandiera, il tricolore, ci penalizza appunto perché? Tricolore, vabbè, tricolori... Tricolori... No, quasi tutte le bandiere... Lu verde, lu bianco, lu rosso... mi sembra giusto... Quasi tutte le bandiere sono fatte da pochi colori... Non sono i colori belli che attirano le persone più, diciamo, più giovani, quelli... Con i 40 anni. I 30 anni pure, se vogliamo. Scusi, appena svezzati, se vogliamo dire. Ma non sono mucche, neanche vitelli. Allora. No, le mucche si svezzano un po' prima. Scusi, posso anche sapere? Anche perché agli 30 anni le mucche poi diventano carne, se magno. Voglio sapere, lei prima di fare il politico che cos'era? Che lei parla un po'... Io tenevo la terra. Poi ho fatto... Poi lo sindaco che stava al paese Lubacchio non andava bene perché fondamentalmente, come diciamo noi, era lo tarallaro e pensava principalmente a lo fare i taralli e non pensava a quello che poteva essere l'agricoltura, che a lui che gliene fregava, lui faceva solo lo tarallo. Allora mi dica, tanto poi chiudiamo, voglio sapere questa idea per colorare il paesaggio, qual è l'idea? A me è nata questa idea da Allora, a Lubacchio aveva un problema che non riusciamo a far venire gente da fuori. Allora ho pensato, per avvicinare un po' la gente che gli piace il colore, ho detto, coloriamo le uacche. Le cosa? Scusi, le uacche. No, che cosa? Le uacche. Che cosa sono le uacche? Quelle che fanno il latte. Ah, le mucche. Le mucche. Le uacche, le bovinu. No, scusi, c'è qualcosa che non va qui. Cioè, noi le non mucche. Siamo... Le mucche o le vacche? Allora, vacche e mucche stiamo parlando. Le uacche. ne abbiamo tante al paese. Io sono cresciuto allevando le uacche. Le chiamo le uacche. Punto. Vabbè. Le vuole quindi già... Faccio il latte, lo provo. Lo provo. Lei quindi vuole dipingere le uacche. No, io ho dipinto. Non è che voglio. Le ho dipinte. Stavo dicendo prima, se lei non mi interrompe. Ma io scusi, non avevo capito cosa sono le uacche. Non è colpa mia, cioè... Le stavo spiegando. Allora, io ho preso le uacche di tutto il paese che stavano dentro agli vari greggi degli pecurari. Ma no, i greggi è una cosa, le pecore... Vabbè, i greggi dei pecurari, va bene così. Allora, le uacche le ho prese e le ho dipinte di vari colori. Ah, come la mucca della Milka, la cioccolata. Lupo Alberto. Non Lupo Alberto all'angolo. Lupo Alberto all'angolo, se lei ci va la prossima volta che torno al paese, c'è una barretta di cioccolata viola. Ma quelle fa le barrette le sue. Okay. No, allora, lei vuole... Adesso, però tu che... Cioccolato c'è... fatto con le mani. Già qua sto sudando. Tutto per... bello, anche come presentazione, non era il solito blocco di cioccolata. Ricordiamolo che sta all'angolo della piazza. No, niente pubblicità. No, allora, non è pubblicità, è proprio per implementare allora anche il turismo nei piccoli paesini che secondo me sono poco sfruttati. Ale, pure tu però, le vacche colorate. Comunque, le uacche colorate. E di che colori? Dipende, che vanno dall'azzurro celestino e vanno a viola, verde. Io poi per proporre tutte queste cose ho detto anche di fare gli quadri colorati con le uacche colorate per dare anche un tocco di spessore e di coloratezza. Quindi se io vengo a tiro Lubacchio di coloratezza, di coloratezza. Che significa? Non chiedere, sto sudando per cercare di parlare con questo personaggio. Mi scusi, allora abbiamo detto le vacche colorate, quindi adesso se io vengo a tirlubacchio... Per esempio, per farli capire, il periodo dell'uomo mondiale, tutte le uacche erano tutte quante bianche, rosse e verdi. Ah, che bella immagine. Messi vicini facevano questa bandiera dei bovini. Cioè, quindi sto dicendo che se io venivo nel periodo, se fossi venuto nel periodo dei mondiali a tirlubacchio, che non so neanche dove si trovi... È bellissimo, è un paesino molto bello, folcloristico, sopra l'Uvizio della montagna, molto carino. Potevo vedere questa bandiera fatta di mucche. Ma si vedeva da lontano, Da anche Google Earth si vedeva anche questa bandiera. Ma pensate, 20-30.000 bovini colorati, metà bianchi, metà rossi. Lei ha colorato 30.000 bovini. Ma certo, è ovvio. Con che tipo di vernice? Ma non lo so, me l'ha dato... Chi gliel'ha data? Michele... Dove l'ha comprata la vernice? Allora, vabbè, non lo posso fare pubblicità, no, però... Vabbè, dica. Michele Ruferramenta, che si trova all'angolo di Via Rappia... Vicino ovviamente al Lupo Alberto. Vicino al Lupo Alberto, va bene. Quindi lei adesso ha dipinto queste vacche. Un curiosità, ma la vacca, una volta che viene dipinta, la uacca, scusi, funziona tutto in regola? Cioè, la vernice, diciamo che è nociva, cioè il latte, il formaggio, come esce? Sempre buono. La vernice sopra le uacche, se il tempo si fa i fatti sua, non se ne viene. Per quanto riguarda il formaggio, se la gente lo vuole, possiamo fare anche uscire i formaggi colorati. No, ma come formaggi colorati? Quello ovviamente al sapore del formaggio che si desidera. Ma come al favore? Il formaggio è formaggio. Cioè non è che puoi scegliere di che sapore. Ma le uacche in genere, poi dipende come viene fatto il formaggio. Questo è un discorso un po' tecnico. Vabbè, allora che facciamo... però non vorrei affrontare. Comunque il mio punto era, io ho fatto queste uacche colorate, sì. Ora io direi di pittare, o quantomeno di far capire alle persone, dare un tocco di colore, tutti i cani e tutti i gatti nelle strade pittagli colorati. Ma lei è pazzo. Lei è pazzo. Allimi, anche l'utopo grosso, quello che sembra un gatto, così il topo che sembra un gatto, così poi successivamente la gente non ha più paura di queste cose grosse. Vabbè, facciamo allora. È perché la nostra lingua, non ci dimentichiamo che comunque proviene dal latino antico. Ma la vostra o la nostra? Perché secondo me qua c'è la differenza. Perché non parliamo la stessa lingua? Guardi, mi sorge un dubbio. Forse siamo parenti di lingua, diciamo così. Però Comunque, se lei vuole venire a Lubacchio, le faccio trovare anche ma il nostro piatto. Lubacchio o Tira Lubacchio? Tira Lubacchio è il posto. Ah, okay. Lubacchio dove io tengo, dove sta, diciamo così, il comune di Tira Lubacchio. Sono due frazioni. Vabbè, io vengo. Se vuole venire a Tira Lubacchio. Come si mangia a Tira Lubacchio? Benissimo, ci sta il piatto principale, che è l'Ulubacchioso, che è un misto tra carne bovina e un po' di formaggi vari, diciamo le cose tipiche che ci stanno da noi. Avevo già fame. Lo coniglio, culo e patate. Culo e patate? Ha detto culo riempito, riempito dentro con le verdure coltivate proprio. Va bene. È fatto a vino. Va bene, allora grazie mille. La richiameremo sicuramente, non c'è proprio dubbio. D'accordo. Adesso se mi ripassa... Le devo chiamare... Il capo partito. Le devo chiamare Mummolo? Sì, Mummolo. Lu Mummolo! Senti un po' qua, ti stanno chiamando al telefono, Mummolo! Lu Mummolo. Ok. Questo bestemmia come fosse proprio acqua fresca. Pronto? Buonasera! Ah, Mummolo, abbiamo conosciuto. Avete parlato? Bellissimo. Bella persona. Guardi. Il pane d'uomo. Allora, c'è qualcun altro nel suo team? Sì, senta, io veramente ho parecchi assi nella manica. Ah. Nello stretto. Ma no, comunque della manica, ha fatto la battuta. Sì, molto divertente, signor Mummolo, molto divertente. State zitto, per favore. Comunque, non posso dire il nome di questa persona, però ho avuto una forte alleanza con un personaggio molto noto. Ah, noto? Che vuoi tenerlo segreto ancora? Sì, perché fin quando non ci saranno le elezioni, bam, questa botta improvvisa che... Mi ha anche stonato per fare questo bam. Ma per... Proprio l'imponenza di questa cosa. Per ora ve lo faccio parlare due secondi. Ah, che bello. Non ci non so se lo conoscete, se avete avuto a che fare. Noi comunque, anche se intuiamo chi è, perché siamo bravi noi a intuire chi è, non possiamo dirlo. No, lo potete dire. Perché siamo ancora in campagna elettorale. Sì, siamo capaci. Ancora non è stato mostrato definitivamente il mio partito. Allora, mettervi la voce, così lei ce lo presenta, parlate tutti e due insieme. Sì, mi raccomando... Pure sì. Questa è una persona importante, parlateci bene, con calma, per favore. Certo, okay. Ti immagini che parla. Parla. Pronto? Pronto, buonasera, con chi parlo? Radio 2010, però mi sa che ci conosciamo. non ricordo esattamente, mi può dire di preciso chi siete? Ascanio, ma chi cazzo? È proprio lui. Di Napoli. Allora, innanzitutto... Non siamo deficienti, siamo di Napoli. Voce. Bravissimo. Mi sono dimenticato. Allora, a me questa voce mi pare familiare. Ale, tu che ne pensi? Sì, no, mi sa che l'abbiamo intervistato già una volta. Mi pare. Guardi, io rilascio in media 5, 6, 7, 8. È proprio lui, è proprio lui. Interviste al giorno. Potrebbe anche essere che una volta mi sono collegato con voi involontariamente. No, lei è collegato con noi volontariamente. Mi ricordo, dato che c'è stato un conflitto accesissimo. Ma no, non è vero, siamo amiconi. Infatti questo problema dell'aereo stiamo cercando di aggiungere. Il problema della R. Stiamo cercando di aggiustare. Ci stiamo scambiando informazioni utili, diciamo. Ci stiamo crescendo insieme. Cioè, voi vi siete messi insieme? Certo, ma voi chi? Non sai neanche con chi stai parlando all'altra parte. Io c'ho un'idea. No, allora, io c'ho un'idea. Per il fatto delle elezioni non dirò. Però anche gli spettatori, non è che sono tutti quanti scemi qua. Anche lo spettatore sa chi sta parlando di là. Voi avete litigato in una maniera pazzesca. Ma nessuno ha litigato, ma non è vero. Sono volate parolacce come Ascanio, se piovesse. Se posso intervenire. Ma prego, figurati. Ma guarda, prego, figurati. Li senti tutti e due? Ti ringrazio. Culo e camicia. Volevo dire... Culo sarai tu. Forse ricordo l'occasione in cui ho sentito, ho ascoltato per la prima volta l'amico Ascanio Mummolo. Ricordo che c'è stato uno scambio acceso di opinioni, ma... No, erano parolacce, non opinioni. Offese mortali. Ma no, si parlò anche di trans. Stai zitto, tu sei un trans. Sto parlando. Non sono un trans. Si era parlato di trans. Ma lei quindi, offendeva. Quando ci sono, se permettete, altrimenti posso sempre andarmene. Lei no, un ma po'. Ti prego, resta. È un po' troppo. Comunque, è conflittuale, pretestuoso. Solo per la stima e l'affetto per Ascanio. Beh, stima, affetto. Adesso culo e camicia. Sì, ormai sono senti, come lo sei tu, la camicia e Maurizio Costanzo. Questa storia. Va bene. Grazie, Ascanio, per la tua. Appassionata difesa. Appassionata volevo dire difesa. Quando si incuociano delle opinioni. Scusi, potrebbe ricordare? Non ho capito. Quando si incuociano, incuociano. Quando, senti, quando si confrontano, senta, se... non mi metta l'accento sulle I, perché molte I sono senza accento, non è che capito, sono tante parole. Capito, tu sei un ignorante. Scusi, ma incuociano, io non so cosa voglia dire. Tra l'altro questa persona gestirà tutta l'economia. Guarda, non l'avevamo immaginato. Ce l'avamo arrivati comunque. Il signor Mumolo ha dei programmi sull'economia che sono molto estremamente grossi, all'avanguardia, e mi sono... diciamo, ho l'onore di aver preso in considerazione Bernardo Lascitaralli. C'è l'onore, cioè noi siamo l'economia, l'idea di Ascanio Mumolo per l'economia. Stiamo parlando di uno che ha fatto portare le pietre dalla Turchia, no, per costruirsi la legge di Versailles. Non posso anticipare niente, ma ci sono delle ricette che in un paese in oggettiva difficoltà come il nostro potrebbero garantire il risollevamento della situazione. Adesso non posso essere più esplicito, perché Ascanio ha espressamente detto che renderemo pubblico il programma solamente dopo le elezioni regionali che ci saranno fra un mese. Guarda, io sono... Cioè, tipo, non è giusto? Vabbè, continuo. No, dica, no, dica, no, cosa no, non è giusto? Io non va bene, tipo, questa televisione, no, che viene oppressa da queste... tutte queste censure, tipo quel povero Isani che adesso si sta cucinando in cucina, che è molto bravo, che è stato cacciato da questa trasmissione. Ma no, era Bigazzi. È vero, Bigazzi. Quello che cucina i gatti. Isani, vattene via! Aveva invitato Isani. Era sì. Bigazzi. Ma allora... credevi che fosse quell'altro? Sì, credo, cioè, poverino. Allora, cosa abbiamo mangiato? Mi aveva detto che era gatto al forno. Cretino, è fatto il gatto. No, ragazzi, allora, a parte i gatti non si mangiano. Poi... veramente siete usciti in amicizia tutti e due? Cioè, veramente lui sarà il prossimo futuro ministro? Ah sì, basta che corregge questo problema dell'aereo. Ma non è si corregge, ormai ce l'ha. No, non c'ho niente, fa finta, è una scena. Lei fa finta. Diciamo che mi riservo di non rispondere. Vedi, è riservato, mica come te. Va bene, allora facciamo una cosa. Grazie mille. Sono anche un po' curioso. In verità dovremmo chiudere per il tempo. In verità voglio ancora sapere... cioè... Vabbè, chiudiamo con il mio spot, ok? Ah, sentiamo lo spot. Gente per noi, gente per voi. Servono tutti. Ma voi vi siete preparati, perfetto, ma siete ridicoli. Bravo, un applauso a questo. Ma che no, quale applauso? Quale applauso? Ma il mio staff sarà di ferro. Ma che cosa state dicendo, faremo, Alessio? Faremo come... proprio come quella Germania, chiuderemo ad artiglio tutti quanti. È pazzo. E sono pazzi. Ma tra l'altro. Evviva l'Italia, viva Vissani. Ma come viva Vissani? Facciamo parlare un attimo l'ospite. Va bene. Allora, scusi, io un attimo, signor Mummo, permette che dico, ma lei veramente sta facendo? Cioè, sta veramente... Signor Mummolo, signor Mummolo! Via voce di merda! Bravissimo. No, ma via voce basta, andava bene comunque. Lei che è uno dei più importanti personaggi... Signor Mummolo! Non posso neanche cantare senza dire le parole, per favore, un attimo solo. Ma quanto ne ha? 12 anni? Per favore, un attimo solo. Lei che è uno dei più importanti personaggi della politica italiana, perché? Perché Ascanio Mummolo? Ma come avete potuto apprezzare pochi secondi fa, si tratta di una persona che ha molto a cuore l'interesse nazionale. Il suo interesse, mi ricorda un'altra persona. È molto affezionato al paese e in questo momento ci sono delle condizioni che fanno ritenere che si stia per andare a un cambiamento drastico degli scenari, degli equilibri politici attuali, e in questo senso io non anticipo niente, ma volevo ci tenevo a dire che il progetto di il progetto di Ascanio Mummolo mi sembra estremamente valido, sinceramente. No, non vedo alternative. No, allora, che alternative, vabbè, però questo non vuol dire che dobbiamo metterci in mano a un nazista. E tra l'altro io adesso voglio smettere questo buonismo, non se ne può più. Cioè, Ascanio Mummolo è colui il quale ce l'ha contro gli omosessuali. Ragazzi, io sono qui, comunque allora, mi sento. Cioè, lui, gli omosessuali, come li chiamano gli omosessuali, lei? Gli omosessuali. Non dica stupidaggini. Lei, gli omosessuali, li offende con quell'epiteto classico. Non è vero. Ma perché se lei va in mezzo a una strada, la gente, come dice, omosessuali o quell'altro epiteto? Ma vedi che qua si tratta di uno scollegamento dalla realtà. A parte l'idea di lei. E infatti ho detto vedi. Mi ricordo com'è che sia, io posso darle del tu. Vorrei fare soltanto una domanda al nostro ospite. L'altro, non possiamo dirlo, quindi ci bippiamo da soli. Facciamo così, io lo dico e tu mi bippi, ok? Sì. Uno, due, tre. Silvio Berlusconi. Come l'ha presa? È vero, perché lei se n'è fuggito. L'ha presa nel senso che... Non l'ha presa nel culo! Ecco. Ringrazio... Come la deve prendere? Non c'è anche. Uno alza e l'altro schiaccia. Vabbè, cioè, vabbè, così. Vabbè, con un po' di sabbia. No. C'è un'intesa perfetta come non la provavo da molti anni. Di questo devo ringraziarvi perché comunque ci avete fatto conoscere. Vabbè, però a me non mi sembrano molto diversi i due personaggi. Secondo me ho il castello più grande. E come al solito tra i uomini questo, si vede chi ce l'ha più lungo, più grande. Vorrei fare un esperimento. E abbiamo questo i due. Quanto sei disposto a dare agli altri? Ecco, pure questo. Casa Mummola è aperta a tutti. Abbiamo tranne un attimo di silenzio. Barboni. Non è vero, non ho detto niente. Mamma di mia, che cos'è? Una festa di quindicenni? No, è porta a porta la vespa. Esatto, uguale. Perfetto. Abbiamo i due ospiti. Abbiamo i due ospiti. Abbiamo i due con tutti quei blu. Non siamo a Vespa, non ma se li unisco che esce una cartina. Allora non ne esce un plastico. Abbiamo due ospiti, facciamo i saluti a tutti con la nostra musica. Facciamo fare i saluti ai nostri ospiti. Intendevo. Sì. Allora, per favore, li chiediamo di salutare i nostri ascoltatori che le stanno ascoltando. Quindi lei un po' di pubblicità, se ve la siete fatta un po' di pubblicità, grazie a noi. Quindi salutate i nostri ascoltatori. Allora non ci dimentichiamo nessuno, eh. Allora, salutate gli ascoltatori. Arrivederci. Arrivederci alla prossima. Allora, dove ci possono spero salire? Che questo partito Mummolo vi possa stimolare a cambiare proprio orizzonti. Signor vedendo Mummolo, tutte le cose aperte. Signor insomma. Mummolo, dove sì. ci possono seguire? Radio 20 www.ascanio Mummolo. No, scusi, ho sbagliato. Vabbè, lei non può sfruttare. Ah, infatti ha ragione, colpa mia. www.radio2010.com. Nel caso non vi piace, venite su www.ascanio Mummolo. Invece signor gente ospite, per noi, gente per voi, servono tutti.com. Okay. Signor ospite misterioso, niente. Misteriosissimo. Proprio. Dica qualche nome dell'opera. Così facciamo fare i saluti a lei. Chi siamo qui? Vabbè, non è preparato. Allora salutiamo. Mi hanno passato il foglio. ci penso io alla passata del foglio. La sentiamo questo classico politico che sa. Sì, allora sì, salutiamo innanzitutto il regia, il nostro amico Fabio Milano. Oh yes. La nostra speaker Eleonora Minucci. Salutiamo le nostre attentatrici ai microfoni. Le nostre attentatrici Fernanda Teta, che è arrivata e fortunatamente non ha spaccato niente, anche se di genere esatto. È goffa come un elefante in un negozio di ceramica. Antonella Pulli che è qui a risplendere nel nostro studio. Una presenza femminile, sì. Giustamente. Salutiamo il nostro mitico DJ Corrado Parisi. Ciao DJ. Buonasera. Oh yes. Salutiamo il nostro ospite Misterioso. Arrivederci, buonasera. Da Riccardo Cremona, Alessio Strazzullo. Siate curiosi, ciao. Buonasera. Dieci.